Allora, uscendo dall'albergo, gira a sinistra, va dritto e prende la prima strada a destra. Via Decimatori è la quarta a sinistra.